America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Do you know him? War hero. Mr. Gatsby doesn't exist. Gatsby? What Gatsby? Great Gatsby, Leonardo DiCaprio, lo ricorderete, il grande film dell'anno scorso, un film che ha dominato per l'estate e soprattutto ha riportato l'America, alle vecchie glorie degli anni 20, di Scott Fitzgerald, delle grandi feste, dell'estate. Siamo in estate e devo dire quel film così ha catturato l'immaginazione collettiva degli americani. Ma che succede? Quest'anno il film naturalmente non c'è più, ormai è un film vecchio, ma si sono scatenati gli americani, forse per nostalgia, forse è perché le cose non vanno bene, insomma, soprattutto dal punto di vista internazionale. E beh, insomma, l'America vive una crisi dopo l'altra, sente di non avere presa. Il nuovo ordine che si era costruito dopo la fine della Guerra Fredda si sta un po' sgretolando. L'economia nel primo trimestre non è andata bene, adesso dovrebbe andare meglio, ci sono stati anche dei dati incoraggianti, ma la gente non è contenta, non c'è una grande, come dire, felicità, serenità per strada. E allora forse anche per questo si cerca un po' un rifugio nel passato, proprio in quegli anni venti che furono, prima del grande crollo, furono degli anni gloriosi, straordinari, creativi su tutto, dal punto di vista della musica, della cultura, dell'industria, del film. Pensate, Charlot, Charlie Chaplin trionfava proprio in quegli anni. E infatti proprio in questi giorni ci sono varie occasioni in cui un po' dappertutto in America ci si rifugia in questi anni venti, per esempio con la Abiding Lines Dance Company. Ecco, una compagnia musicale che sta per lanciare un nuovo programma che uscirà fra poco, fra poche settimane, entro 3 settimane, e con una storia, la storia di una coppia che si muove, che cresce appunto durante gli anni 20, una storia coreografata con musica, con danze, ma con una vera e propria trama teatrale, tra virgolette. Oppure in Florida, a Gulfport, sentite. Gonna have some fun tonight? Oh, definitely. I've already had fun, you know, just dressing up and hey, I went in my closet. Ecco, sono persone che si danno il benvenuto, si stanno organizzando per il grande Roaring Geckos Ball Festival, un ballo di nuovo ispirato agli anni 20, questa volta nel sud, con una serie di tematiche del sud, interpretazione del sud, che però guardano a quello che fu il modello classico degli anni 20, cioè la grande esplosione di cambiamento di cultura, di vita, che avveniva invece nell'East Coast. Ecco, questo ritorno agli anni 20, c'è anche a New York. Perché? Perché siamo andati con America 24 al Jazz Age Lawn Party, che è un raduno ispirato appunto agli anni 20, che è giunto alla sua nona edizione. Ci sono musiche dal vivo, ballerini che si esibiscono al ritmo di foxtrot, picnic, e tutto avviene dove? A Governor's Island, che è un isolotto a largo di New York, semi abbandonato, dove ci sono però degli eventi ricorrenti. Mi ricordo che andai una volta a vedere a Governor's Island una partita di polo dove giocava il principe Harry, e ci fu un grande fundraising per portare beneficio, per portare filantropia a una serie di cause sia qui negli Stati Uniti che in Inghilterra. E dunque tra queste varie attività ci sono state gare delle torte, foto sulla luna di carta, bancarelle con abiti, gioielli vintage, e soprattutto la gente. Perché la gente interpretava in questa isola, in questo gruppo, erano centinaia e centinaia di persone, gli anni ruggenti. Avreste dovuto vederli, io qui ve li posso solo descrivere, non posso farvi vedere le fotografie, ma le abbiamo messe sul nostro sito internet, su America 24, potrete trovare anche un articolo dedicato a quello che è successo con una gran quantità di foto. Ecco, le persone entrano da una porta ed escono dall'altra e improvvisamente fanno un balzo indietro nel tempo, chissà, magari a cercare un po' di sicurezza. Sentiamo cosa ci dice Michael Arenella, che è l'organizzatore di questo festival. Sharing my music, sharing my passion for the beauty of the jazz age. Ecco, Arenella, italo-americano, dice: questo festival è la mia vita, condividere la mia musica, la mia passione per quest'epoca straordinaria, la sua cultura, la sua allegria, il suo ottimismo, e con tutta questa gente in una bella giornata di sole come questa è meravigliosa. La famiglia di mio padre è di Napoli, in Italia, dove sono stato più volte, ho anche vissuto a Napoli quasi 6 mesi, ho anche posato per vari artisti. Ecco, il comune denominatore dunque che identifica Michael Arenella è proprio quello che vi anticipavo, cioè l'ottimismo, l'allegria, insomma una fuga un po' nel passato, la spensieratezza che rappresentava gli anni 20 anche nella sua musica. Sentiamo. Ecco, ma non ci sono soltanto ballerini, persone che cercano fughe dal passato, magari persone così che lo fanno per hobby, ma abbiamo incontrato a Governors Island anche John Darnell e Colleen Manassa, sono tutti e due, pensate, professori di egittologia a Yale, si sono incontrati a Yale, sono una coppia, e beh, dovreste vederli, perché per esempio il vestito di Colleen Manassa è originale degli anni 20, l'ha comprato online da un negozio della California circa 6 mesi fa, ci ha raccontato, e George Darnell invece così fa un balzo nel tempo, forse l'antico Egitto un po' troppo lontano per lui, per essere uno storico è più facile rifugiarsi in quel periodo straordinario. Sentiamolo. I guess for me it's interesting because I try to dress most days in kind of a version of, I don't know, 20s, 40s, 60s, something. Ecco, dice, il mio stile è molto simile a quello degli anni 20, anche nella mia vita quotidiana. Amo questi abiti per il modo in cui vestono, per la qualità dei tessuti, della manifattura. Non è facile trovarli, ma cercando bene in giro ci sono ancora molti vestiti originali di quel periodo. Poi Darnell racconta come molte cose sono cambiate, soprattutto per le donne che durante la Prima Guerra Mondiale hanno cominciato a lavorare per la prima volta, hanno continuato a farlo dopo la guerra. Quindi in questi anni 20, come dire, viene a frutto tutto quello che è stato il grande shock della guerra mondiale, che poi celebriamo in questi giorni con il centenario dell'assassinio di Sarajevo e poi dell'avvio della Prima Guerra Mondiale. Quindi questa puntata in fondo la mettiamo anche in quel contesto di anniversario centenario. Anche la moda maschile ha subito una trasformazione nei vestiti, nei cappelli, nelle acconciature. Insomma, si può dire che questi anni siano stati uno degli ultimi periodi della storia in cui davvero l'arte, la moda, il design hanno vissuto una sorta di comunione. L'art déco comincia a permeare ogni aspetto della società, dell'architettura, della moda. Dunque, anche questo è un modo di vivere l'estate. Anche questo è un modo, come dire, per fuggire da una realtà americana, questa realtà del 2014, che per ora ha portato soprattutto notizie poco rassicuranti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguiteci su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, parlavamo degli anni 20, la prima tentazione era quella di andare a rifugiarci nel passato, ma proprio perché hanno una loro contemporaneità, e beh, c'è Aaron West and the Roaring Twenties, quindi Aaron West con gli anni ruggenti, che è la sua band, e che hanno preparato un single che è uscito proprio in questi giorni. Mi è sembrato più opportuno fare un balzo nei nostri giorni per vedere come gli anni 20 continuano a ispirare artisti del nostro tempo contemporanei. Aaron West, Divorce and the American Sound. I'm lost at a truck stop somewhere in the south. I don't know where I'm going, but I'm figuring it out. Locked myself in this phone booth, read you the number aloud. Now I'm waiting it out. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.